per i sette principi che la Croce Rossa ha, tra cui l'imparzialità, la neutralità, che sono principi forti, ma soprattutto il primo principio che ci distingue da tante altre associazioni è proprio l'umanità, che viene già dal nostro fondatore Thierry Dunant. Croce Rossa, tra d'Attiraglio e Renord, è ormai un decennio che siamo presenti all'interno di questa struttura. Non è stato un caso. Quando abbiamo ragionato col Comune di Modena per venire a occupare questi spazi, la risposta è stata sì, perché se non Croce Rossa in una situazione comunque complicata, perché sappiamo tutti che questo è un quartiere che ha le sue problematicità, e quindi siamo venuti qui convinti e convinti di poter portare un contributo al quartiere. Questo tra l'altro ci permette non solo di trasmettere all'esterno quell'immagine bella, importante, con le nostre ambulanze, le nostre divise e che quindi può aiutare anche per far capire al comune cittadino che non è un ghetto questo, ma ci sono anche realtà importanti come appunto Croce Rossa. Ma è anche importante proprio per le nostre attività, per quello che facciamo nel quotidiano. È importante, mi viene da dire, per la distribuzione alimentare, che qui ovviamente soddisfa tante richieste, ma è importante in tutti i nostri servizi. Se ne devo dire un altro, mi viene in mente il servizio dopo scuola che facciamo per i bambini delle scuole elementari che abitano all'interno del quartiere del complesso R-Nord. Sono persone che hanno difficoltà a muoversi in città, hanno tante vulnerabilità e alle quali noi diamo il nostro aiuto quotidiano anche per le cose di tutti i giorni, anche a fare i compiti. Buonasera, sono Bridget dal centralino del Comitato di Modena. Come posso aiutarla?